Giorni senza fine, croci lungo mare, profughi siriani costretti a vomitare, colpi di fucile, sudore di cantiere, nel cortile della scuola, stese ad asciugare, canottiere rosse, rosse a sventolare, se mi dai la mano ti porto a navigare. E se mi accarezzi, te lo lascio fare. C'è qualcosa nella fine dell'estate, non so bene che cos'è, e non riesco a respirare. Io non ho più voglia di ascoltare questa musica leggera, nello sparire nel mistero del colore delle cose, quando il sole se ne va. Resta poco tempo per capire il significato dell'amore, l'idiozia di questi anni, il Vangelo di Giovanni, la mia vera identità. Thank you.